Davide tenne consiglio con i capi di migliaia e di centinaia, con tutti i principi. A tutta l'assemblea di Israele, Davide disse: «Se vi sembra bene, e se il Signore, nostro Dio, lo consente, comunichiamo ai nostri fratelli che sono rimasti in tutte le regioni di Israele, e con loro anche ai sacerdoti e ai leviti nelle città della loro residenza, di radunarsi presso di noi. Allora riporteremo l'arca del nostro Dio presso di noi, perché non ce ne siamo curati sin dal tempo di Saul». Tutta l'assemblea approvò di fare così, perché la proposta parve giusta agli occhi di tutto il popolo. Davide convocò tutto Israele, da Sicor d'Egitto fino all'ingresso di Amat, per riportare l'arca di Dio da Kiriat Yearim. Davide, con tutto Israele, salì a Baala verso Kiriat Yearim, che apparteneva a Giuda, per prendere di là l'arca di Dio, che portava il nome «Il Signore che siede sui cherubini». Dalla casa di Abinadab trasportarono l'arca di Dio su un carro nuovo. Uzza e Achio guidavano il carro. Davide e tutto Israele danzavano davanti a Dio con tutto l'entusiasmo, cantando e suonando cetre, arpe, tamburi, cembali e trombe. Giunti all'aia di Chidon, Uzza stese la sua mano per trattenere l'arca, perché i buoi l'avevano fatta barcollare. Allora l'ira del Signore si infiammò contro Uzza e lo colpì, perché aveva steso la sua mano sull'arca. Egli morì lì, al cospetto di Dio. Davide si afflisse perché il Signore si era irritato contro Uzza, e chiamò quel luogo Perez Uzza fino al giorno d'oggi. In quel giorno Davide, avendo avuto paura di Dio, esclamò: «Come potrei far condurre presso di me l'arca di Dio?» Davide non fece trasportare l'arca presso di sé nella città di Davide, ma la diresse verso la casa di Obed-Edom di Gat. L'arca di Dio rimase nella casa di Obed-Edom 3 mesi. Il Signore benedisse la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva.